E allora buongiorno a tutti e tutti, sono le 15.06, oggi è mercoledì, anche oggi, e quindi va in onda la trasmissione, trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va in onda appunto ogni mercoledì dalle 15 alle 16. E allora, come abbiamo visto dai giornali, dalle televisioni, in realtà è stato approvato il cosiddetto decreto, ha avuto tanti titoli questo decreto governativo riferito alle carceri, in genere è stato più chiamato il provvedimento svuota carceri, anche se quanto mai definizione è stata infelice rispetto a quello che realmente realizza, e, che però appunto è il caso di vedere esattamente di quali che argomenti che propone, che cosa porterà nel futuro dei detenuti e delle detenute nelle carceri italiane, e purtroppo appunto che produrrà. Vediamolo in maniera dettagliata. Allora, vediamo un attimo di cosa si parla. Dunque, il primo sono in realtà alcuni provvedimenti, due i capisaldi di questo provvedimento, due immediati e uno di prospettiva. Quello di prospettiva parla della costruzione di carceri e della chiusura degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, ossia i manicomi criminali. Vediamo intanto quelli immediati. Allora, c'è la possibilità per chi ha da un residuo pena, quindi ancora da scontare 18 mesi, qualunque sia stata la condanna, c'è la possibilità di trascorrere questi ultimi 18 mesi, quindi un anno e mezzo, in detenzione domiciliare. Si chiama detenzione domiciliare perché quando uno è definitivo, la permanenza in carcere o comunque in qualunque altro posto si chiama detenzione. Quando uno invece non è stato ancora condannato si chiamano arresti domiciliari, ma anche in altri posti sono arresti. Quindi uno riguarda la detenzione, l'ultimo periodo di detenzione, l'altro riguarda il primo periodo di arresti. È quello appunto che sostituisce l'ingresso in carcere con le camere di sicurezza. Allora, la detenzione, l'ultimo periodo di detenzione, 18 mesi, è possibile che coloro che hanno da scontare 18 mesi, quindi un anno e mezzo ancora, facendo domanda al magistrato di sorveglianza, possano avere la detenzione nel proprio domicilio, quindi in abitazione. Intanto bisogna dire che sono esclusi tutta una serie di reati, tanti, per esempio il furto in abitazione, lo scippo, la rapina e l'estorsione, quindi praticamente la gran parte dei reati. Inoltre questo provvedimento non scatta automaticamente, non è che dice che coloro che hanno appunto da trascorrere ancora 18 mesi fanno domanda ed escono immediatamente. La sua domanda verrà vagliata dal magistrato di sorveglianza, che valuterà intanto se la sua tipologia di reato per il quale è stato condannato rientra in quei reati previsti, perché appunto molti reati che sono esclusi, no? Abbiamo detto alcuni, scippo, rapina o estorsione e anche furto in abitazione e altri. Ed anche ovviamente ci mette un po' di tempo, perché immaginate che pioveranno un sacco di domande sul tavolo dei magistrati di sorveglianza, che sono pochi rispetto alla gran massa dei detenuti, e quindi ci metterà tempo. Facendo un calcolo molto realistico, usciranno in media non più di 100 persone al mese. siccome, già, siccome è già successo questa cosa, quindi ci si basa sulla realtà realizzata, effettuata, perché questo stesso provvedimento, però con una residuo pena di 12 mesi, quindi di un anno, era stato fatto dal ministro Alfano due anni fa. Anche quello era stato chiamato svuota carceri, ha avuto con lo stesso meccanismo, quindi fare domanda al magistrato di sorveglianza ed avere la detenzione domiciliare, e lì si sono verificati che sono usciti appunto in media 80 persone al mese per un totale di 1.700, circa 2.000 persone. Andiamo. Quindi niente, praticamente è stato quello che hanno definito molti osservatori, svuotare il mare con un cucchiaino. E anche questo sarà svuotare il mare, perché non basta elevare a 18 mesi, intanto perché il meccanismo è molto lento, al punto che appunto non riusciranno a uscire più di 80-90 persone al mese, e quindi già è graduale, è talmente lento e farraginoso il meccanismo che non permetterà una fuoriuscita sensibile, quindi non si vedrà, non se ne accorgerà nessuno di questa diminuzione della quantità di detenuti e detenute. E poi perché appunto sono esclusi un sacco di persone dai reati, da questa diciamo, possibilità, e soprattutto perché appunto il meccanismo è lungo, quindi saranno pochi, e anche nel corso di usciranno più di 100 al mese, quindi non cambierà assolutamente niente. Questo riguarda l'ultimo periodo di detenzione. L'altro provvedimento è quello che invece riguarda il primo arresto. Era partito dalla considerazione del Ministero di Grazia e Giustizia, di giustizia, oggi si chiama solo di giustizia perché di grazia in effetti non ne ha mai avute, però quindi hanno pensato che era il caso di togliere anche il nome. Quindi il Ministero di Giustizia si è accorto da alcune rilevazioni che molti detenuti, una media di 20.000 l'anno, entravano in carcere perché arrestati in flagranza di reato, ma ci riferiamo ai piccoli reati, in genere furto, reati contro il patrimonio, ci stavano un paio, due, tre giorni, in media non più di tre giorni, perché entro due giorni una persona arrestata in flagranza di reato ha il processo per direttissima, che si fa entro le 48 ore, 96 ore al massimo, quindi entravano in carcere, ci stavano due, tre giorni, in genere il processo per direttissima, trattandosi di piccoli reati, o assolve perché non ci sono prove, oppure condanna, però la condanna è talmente lieve che la condanna in primo grado permette che il giudice, diciamo, in attesa della definitiva condanna, ti metta agli arresti domiciliari, o addirittura viene rinviato perché si fa il processo per direttissima, a volte le prove non sono state come dire, in maniera sostanzialmente così presentate, oppure non si presentano dei testimoni o altre cose di questo genere, viene rinviato, e anche in quel caso il magistrato spesso dà gli arresti domiciliari. Quindi per evitare questo meccanismo, che con termine sempre giornalistico altrettanto stupido che non la definizione di legge svuota carceri, questo era chiamato contro il meccanismo delle porte girevoli, perché si voleva significare che si entra in carcere e dopo due giorni si esce, no? Quindi porte in questo senso, che però dicevano ingolfa il sistema carcerario, c'è tutto questo problema, e quindi per alleviare questa situazione che cosa hanno fatto? Uno pensava, diceva, vabbè, allora facciamo che coloro che vengono arrestati in flagranza di reato o per reati minori, piccoli, vadano agli arresti domiciliari, era il ragionamento più sensato. Invece no, hanno pensato di utilizzare le camere di sicurezza, dei commissariati, delle questure, delle caserme dei carabinieri, come luogo di permanenza fino al processo per direttissima, quindi per 48 ore, due giorni, tre giorni, fino a che appunto la persona arrestata in flagranza di reato vada davanti al giudice. È una cosa, su questo ne abbiamo parlato già noi, ma ne hanno parlato tanti, si sono perfino lamentati il sindacato della polizia, i carabinieri non hanno un sindacato, però anche loro hanno fatto sentire il loro il loro dissenso da questa cosa, anche perché tra l'altro le caserme dei carabinieri spesso sono molto più vecchie, più antiche e quindi più malandate, non tanto le caserme dove stanno gli uffici, dove stanno i funzionari dei carabinieri o della polizia, ma quanto le celle di sicurezza. Difatti sono dei posti allucinanti, non si capisce come potranno starci più di qualche ora. Le celle sono fatte perché appunto ci possa rimanere qualche ora, non hanno il bagno in cella, non hanno una doccia, un sistema per farsi la doccia, per cambiarsi d'abito, non hanno ovviamente un cortile per fare l'aria, non hanno nemmeno una mensa, per cui non si capisce come verrà assicurato il vitto a queste persone. È allucinante. Chi ci è passato sa che anche passarci due o tre ore è veramente spaventoso. A volte si tocca rimanerci una nottata ed è terrificante. Immaginate doverci stare due o tre giorni, veramente allucinante. E si sono lamentati anche loro, un po' perché gli portava più lavoro, ovviamente, alla polizia o ai carabinieri, ma anche perché onestamente è inaccettabile. Ora, a questo va aggiunto che in realtà non ci si sente sicuri quando si viene arrestati nelle celle di sicurezza. Ci si sente meno sicuri che in carcere, e è tutto dire, perché oggi dire che si è sicuri in carcere con il numero dei morti, poi purtroppo daremo l'elenco perché anche in questa settimana sono aumentati le vittime, gli assassini da parte del sistema carcere, eppure dire che le celle di sicurezza, ma l'hanno detto un po' tutti, non lo diciamo solo noi, sono meno sicure del carcere, è tutto dire. Se in carcere si muore, immaginate in quei posti. Infatti in quei posti si muore molto di più rispetto alle persone che vi sono recluse nelle celle di sicurezza, che sono pochissimi ovviamente. Perché? Perché in genere si sa che è così, perlomeno in Italia, ma penso in gran parte del mondo succeda così. Quando uno viene arrestato da quelle persone, polizia o carabinieri, che poi ti tengono nella cella di sicurezza, e quegli stessi che ti hanno arrestato ti fanno i tuoi guardiani in quelle ore. E in genere l'arresto raramente avviene in maniera tranquilla, pacifica, col sorriso sulle labbra. In genere il momento dell'arresto è un momento di conflitto, è un momento conflittuale, è un momento di tensione tra gli arrestati e tra coloro che vengono arrestati e coloro che ti arrestano. Ed è normale che sia così, è fisiologico, se volete dite che è anche umano, ma insomma è chiaro che è difficile che uno che viene arrestato dice vabbè, col sorriso sulle labbra offre il caffè a coloro che l'arrestano e se ne vanno. Quindi questa tensione del momento dell'arresto poi si ripercuote chiaramente nelle celle di sicurezza, e non a caso poi i pestaggi che avvengono nelle celle di sicurezza sono i più pesanti, o perlomeno quelli che provocano dei danni, e l'abbiamo visto. Per cui di fatti il sapere di questa realtà portava a che molti magistrati, ogni tanto ci sono dei magistrati intelligenti, no? Ovviamente, casomai non fanno carriera, in Italia no. Però dicevano, anzi hanno fatto il contrario tanti anni fa, quando c'era una pressione da parte della società sul terreno di attenuare, se non rimandare un po' indietro la pesantezza repressiva, che insomma in questo paese è stata sempre molto forte. Che cosa dicevano molti magistrati? Fecero addirittura, parlo sempre degli anni 70, quando c'era una pressione di un certo tipo, si fecero delle circolari per chiedere al Ministero degli Interni, che sovrintende sia la polizia che i carabinieri, di ridurre al minimo il tempo di permanenza nelle celle di sicurezza. Perché in quei momenti sono momenti di tensione al 90%. E quella tensione c'è sempre chi le prende e chi le dà. Ovviamente se stai chiuso in una cella di sicurezza sei tu che le prendi. E allora per evitare queste pressioni, che si sa che avvengono, è inutile fare gli angioletti, ci sono state diverse iniziative intelligenti, anche perfino da qualche ministro degli interni, di dire, per evitare appunto i morti come Stefano Cucchi, come Aldo Frandi, eccetera, di ridurre al minimo le ore, cioè di portare subito in carcere la persona arrestata, in termini addirittura si diceva non più di 2 ore. Perché? Perché in carcere intanto uno entra in un posto diverso. Entri in un carcere, in quel momento non c'hanno niente i carcerieri, i secondini contro di te. Poi appena entri in carcere è obbligatoria la visita medica, quindi già passi attraverso un vaglio che vede se tu sei stato, c'hai delle tumefazioni, qualche cosa, già c'hai un primo controllo al tuo stato fisico. Ed è importante, perché lì c'è un medico che, anche se ti visita superficialmente, il medico del carcere, però tu sei subito un pestaggio nella cella di sicurezza, puoi dire al medico del carcere, no, guardi, qui c'ho una tumefazione, quindi gliela fai vedere, lui è costretto a prendere, è obbligato ovviamente a prenderne nota, a fare una relazione del tuo stato fisico, e di questo è molto importante. Quindi si inverte un elemento garantista, che era veramente garantista e che è presente in tutti gli ordinamenti di polizia. Noi abbiamo ancora il testo unico di pubblica sicurezza, quello di, del regime fascista, appena edulcorato da qualche parte, però è quello. Però i testi di pubblica sicurezza di molti paesi più civili riducono al minimo la permanenza nelle celle di sicurezza, perché sanno che lì sono momenti di tensione. Quindi bisogna, e invece questi personaggi, questi signori del governo, che pure si dicono garantisti, o sono talmente ignoranti che non sanno manco, trattano materie che non conoscono, però è pericoloso, perché insomma, è come se uno usa della dinamite che non conosce, alla fine fa un botto, ecco, oppure sono talmente superficiali che fanno obbrobrio. Insomma, questa cosa qui è veramente pericolosa, brutta, e bisogna assolutamente, già ci sono state diverse tensioni, addirittura appunto i sindacati di polizia hanno detto non va bene questa cosa, hanno fatto molte critiche eccetera. Perché? Perché sanno che poi i pestaggi, che ovviamente aumenterebbero di molto rispetto a quelli che ci stanno, e poi si vengono a sapere, perché alla fine molti si vengono a sapere, avrebbe suonato come una condanna di carattere morale, ovviamente, perché chi condanna quelle persone lì? Però perlomeno morale da parte dell'opinione pubblica nei confronti della polizia di Stato ci sarebbe stata, sarebbe aumentata. Già il discredito in cui versa il corpo di polizia di Stato in questo paese, insomma, è notevole il discredito che, ed anche i carabinieri, insomma. Però che in questo modo, ovviamente aumentando i casi di pestaggi, chiaramente peggiore. Quindi volevano togliere il problema e quindi si sono opposti. Il ministro aveva detto che avrebbe fatto qualcosa, ha soltanto aumentato un po' la possibilità in cui le persone arrestate in flagranza di reato vengano mandate agli arresti domiciliari, però gran parte finiranno nelle celle di sicurezza, senza che tra l'altro nemmeno venga stanziata un euro per casomai migliorare e renderle, se proprio si voleva fare, ma che non sarebbe servito granché, perché la tensione non te la cambia l'ambiente, però insomma, almeno ristrutturarne alcune che erano proprio indecenti. Sono stati fatti pure dei servizi, io non l'ho visti, ma per esempio ci stanno anche su internet dei servizi che gli stessi sindacati di polizia hanno fatto entrare degli operatori, hanno fatto filmare lo stato in cui versano queste celle di sicurezza, e sono allucinanti, che veramente più di un'ora, due ore non ci si può stare là dentro. Sarebbe il caso invece di fare una grossa pressione perché si torni invece a ragionare in maniera diversa. Nelle celle di sicurezza ci si deve stare il meno tempo possibile, non più di un'ora. Bisogna battersi su questa cosa. Ora, non ho mai creduto, perché l'esperienza te lo insegna, e penso che nessuno di noi creda che le leggi cambiano il corso reale del rapporto tra, diciamo, subalterni, e poi il sistema di potere, i cittadini, le classi subalterne che subiscono quel potere. Però insomma, però perlomeno in questo caso non si tratta di fare una legge garantista, si tratta di mettere proprio un limite. Bisognerebbe mettere un limite che più di un'ora, diciamo un'ora, poi loro lo porteranno a due, non si può stare nelle celle di sicurezza. Quello è l'unico momento, cioè dire che è obbligatorio che coloro che arrestano una persona, siano essi polizia di Stato, carabinieri o finanza, portino entro un'ora, una sorta di habeas corpus. Pensate, se nel 1640, quindi qualche secolo fa, dei garantisti, delle persone intelligenti, hanno, proprio per eliminare questo meccanismo in Inghilterra, era un periodo di travaglio il 600, perché c'erano i primi momenti di industrializzazione, venivano tolte le terre ai contadini e quindi veniva creato il grande latifondo, e insomma, quindi si passava dalla condizione di contadini a quello di bracciantile, molta gente non aveva più da mangiare, quindi si sviluppava il grosso fenomeno del vagabondaggio, gente che viveva necessariamente d'espedienti eccetera. E chiaramente la polizia arrestava le persone, la gran parte di questi, grandi percentuali di questi, dopo l'arresto non arrivavano in carcere, comunque non arrivavano sani, non arrivavano davanti al giudice sani, e allora dei garantisti misero quella famosa legge, l'habeas corpus, che impone nel 1640, quando i servizi di trasporto erano, diciamo, un po' più lenti di adesso, e questo ce lo possiamo concedere, entro tre giorni le forze di polizia devono portare l'arrestato davanti al magistrato. Quindi tu hai un corpo e questo corpo deve essere tutelato dal magistrato, quindi entro tre giorni vuole vedere il tuo corpo, tre giorni, non più di tre giorni. Avevano le forze di polizia, con i mezzi di allora, che era il cavallo, la carrozza, non c'erano né treni né aerei, né automobili. Entro tre giorni, in qualunque parte della del Regno Unito venivi arrestato, dovevi essere portato davanti a un magistrato entro 3 giorni. Beh, e coi mezzi di velocità di oggi sarebbero appunto 3 ore, ma forse anche di meno, diciamo infatti 2 ore negli anni 70 si pensava di portarlo, io oggi direi un'ora, non più di un'ora devi stare nelle mani di polizia. Questo è l'unico modo per evitare che il pestaggio diventi spesso appunto che produca gli Stefano Cucchi del caso. È una battaglia che si può fare e si può anche vincere, e quindi bisogna ribaltare questo veramente squallido e penoso provvedimento che non svuota le carceri, che peggiora le condizioni delle persone. Se si vuol diminuire la gente, l'effetto porte girevoli, si danno gli arresti domiciliari. D'altronde per un piccolo reato nessuno scappa, nessuno fa niente. Questo si parla di piccoli reati perché la fragranza di reato vale per i piccoli reati, non è che c'è la fragranza per l'omicidio, non c'è. E perché insomma, il processo è di tutt'altro genere, quindi si danno gli arresti domiciliari e quindi il problema è risolto. Questo meccanismo va veramente imposto, vanno creati, messi in piedi dei movimenti per evitare che altrimenti ci troveremo purtroppo a piangere altre situazioni, diciamo alla Stefano Cucchi, all'Aldo Frandi, a Christian Cupis, De Cupis, qui questo ragazzo morto in circostanze analoghe a quelle di Stefano Cucchi, qui di Garbatella. Quindi noi a Roma tra l'altro ce ne abbiamo talmente tanti casi che dovremo stare molto attenti. Questa cosa va buttata giù. Questi sono i due provvedimenti su cui si basa il famigerato, a questo punto famigerato, provvedimento svuota carceri, che non solo non svuoterà un bel niente ma creerà dei grossi problemi. Horregatikan eskamutil guztiek oheratzeko ordua baino lehen leioa zabal, zabal ikusten dute ea txantre harri sartzen den. Txantrea beti aurrera. Allora, 15.32, prima di parlare dell'altro terzo provvedimento, quello di aver procrastinato di un anno la chiusura degli OPG, ma ne parleremo tra un attimo, vediamo intanto che cosa è successo, questa mattanza che continua. Un ragazzo di 21 anni, si impicca a San Vittore, il carcere di Milano. E la cosa è, diciamo, di una... allucinante, tra l'altro era in carcere da 4 mesi e con il suicidio di questo ragazzo dall'inizio dell'anno sono 10, si contano 10 i suicidi e 24 le morti cosiddette non definite, quindi da 10 a 11 i suicidi entrano con questo ragazzo di 21 anni di San Vittore. E ne parlano, i giornali ne parlano ormai delle morti in carcere, solo delle morti, delle altre cose non ne parlano. Delle morti in carcere se ne parla tanto, forse è diventato, ma non solo come un trafiletto come avveniva una volta, oggi se ne parla anche con un articolo, c'è stato un articolo su quest'ultimo morto qui, un articolo del Corriere della Sera, abbastanza, del Fatto Quotidiano, insomma se ne parlano abbastanza. L'ennesimo suicidio nelle carceri, il decimo in 90 giorni, l'undicesimo, a volte non sono manco corretti, poi ci stanno le prese di posizione dei vari responsabili della giustizia, dei vari partiti, e dicono tutte cose che non si può più tollerare, poi però non fanno niente, quindi vuol dire che si tollera e come, purtroppo. Vabbè, il problema è che il problema è questo. Per esempio, questo ragazzo qui, no? Ovviamente noi il motivo, i dati, perché le imputazioni, questo non era stato condannato, quindi le imputazioni per i quali una persona va in carcere, ma nemmeno le condanne, perché è condannato, non le diciamo mai, perché non deve, altrimenti può portare diversi schieramenti, si creano le tifoserie, no? Come per Roma e per Lazio, quello se ruba non va bene in carcere, quell'altro se fa le cose va bene, cioè ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio o nemici, ognuno si crea dei nemici, purtroppo in questa società abbastanza insicura, non siamo sicuri del nostro futuro, non perché qualcuno ci aggredisca adesso che usciamo per strada, ma perché il nostro futuro è veramente nelle mani al limite di dei fantasmi, non sappiamo nemmeno in mani di chi stiamo. Questa è un po' la luce, perlomeno se uno avesse un nemico visivo in fronte, uno che sai che è uno che ce l'ha con te, che se io adesso che scendo qui questo qui mi aggredisce, saprei come, che ne so, come affronteggiarlo, ne conoscerei, dico quello è più forte, più alto, quindi faccio un po' di palestra, voglio dire, e mi attrezzo adeguatamente. Invece adesso il nostro futuro, l'insicurezza che morde l'animo di tutti noi e ci fa diventare anche brutte persone, perché lo stiamo diventando, è un'insicurezza rispetto a dei fantasmi, perché coloro che decidono, che hanno in mano il nostro futuro, si allontanano sempre di più, e fino al punto che sono questi fantomatici, oggi così ce li raccontano i sociologi, ma anche gli economisti, ci descrivono che il nostro futuro di ciascuno di noi è in mano di alcuni finanzieri che non si sa dove stanno, che maneggiano i mercati mondiali, la finanza mondiale, e quindi può darsi che domani diventiamo poveri. Voi guardate quel povero, immagino la popolazione della Grecia, no? Che si è sentita, non sapeva se da un giorno all'altro ci sarebbero stati 200.000 disoccupati in più, non parliamo di briscoli, su una popolazione molto più piccola di quella dell'Italia, molto, molto. Chi lo decideva? Nemmeno a dire, un capo di un partito, di un governo, che al limite so dov'è, vado sotto casa, faccio un disastro, ma addirittura si diceva, hanno detto a questi, poi in parte non è nemmeno vera questa cosa, però si descrive il fatto che siamo nelle mani di alcuni poteri insondabili, inconoscibili, non impalpabili, che sono questi grandi mercati finanziari che stanno chissà dove, nelle isole Cayman forse, non lo so, oppure qualcuno dice a Bruxelles, nelle borse, insomma in luoghi non identificabili, e questo crea uno stato di insicurezza e di paura spaventoso, tremendo, che però permette poi il governo della, diciamo, delle masse, della popolazione. Oggi passa, non da oggi, non è, questa è una tecnica di governo abbastanza vecchia, che si è poi raffinata col tempo. Si governa con il sentimento della paura. Ridurre la popolazione spaventata, impaurita, dà buone possibilità al governo, diciamo, di governare, perché la paura genera in gran parte acquiescenza, subalternità. Uno sta sì buono, non si muove perché ha paura che se si muove l'insicurezza determina poi aggressione, oppure quando ci si muove così, in maniera episodica, no? Si fa al limite un urlo e dura poche ore e finisce lì. Non è che si mette in piedi un percorso di trasformazione sociale lungo, convinto, determinato, eccetera, organizzato e così via. Non si fa. Vabbè, quindi la paura, si sa, è un modo di governo. Ecco, oggi questa paura ci descrivono questa insicurezza determinata appunto da soggetti sempre più distanti, impalpabili, e quindi chiaramente la paura aumenta. Vabbè, dicevo che parlano quindi di carcere, perché dei morti in carcere ne parlano perché aumenta la paura, e però non ne parlano, poi appunto fanno il lamento, qualcuno dice è una vergogna, tutti i politici dicono è una vergogna, bisogna cambiare questa cosa, poi chiaramente non succede niente se non fanno queste cose, come abbiamo visto i provvedimenti governativi che sono peggiori, perché speriamo proprio di no. Quasi uno non vorrei dirlo, perché sembra che quasi che uno poi, come dire, si augura, però sicuramente la permanenza nelle celle di sicurezza provocherà dei danni alle persone, questo è inevitabile purtroppo, ma lo sanno tutti, l'hanno detto le stesse guardie, quindi la parte più intelligente delle guardie l'hanno detto, e quindi poi che facciamo? Piangeremo dopo sul latte versato, quando questa cosa l'abbiamo determinata noi intendo quelli del governo, però pure noi glielo lasciamo fare, quindi vabbè, insomma, si parla quindi di morti in carcere. Ve n'è un altro, questo è ancora più sconcertante. Tra l'altro, questo ragazzo di 21 anni morto a San Vittore da 4 mesi in carcere, secondo l'avvocato che viene qui intervistato, avrebbe detto che gli spettava a lui e gli arresti domiciliari per il tipo di reato che c'aveva, c'era a casa dei nonni. Però la richiesta è stata respinta, e proprio dopo il rigetto di questi arresti domiciliari, questo ragazzo, insomma, ha deciso di fare il gesto finale. C'è poi un'altra cosa tremenda, questa qui, no? Tentato suicidio, pensate questo come ha fatto un tentato suicidio, che probabilmente non aveva la possibilità, questo a Teramo, al carcere di Teramo. Dunque, sì, dal letto a Castello, sapete, il letto a Castello ormai è una consuetudine del panorama dell'universo carcerario di questo paese, perché c'è le sovraffollate e chiaramente si fanno i letti a Castello, è l'ultimo a sbattere sul soffitto. Vabbè, questo si è buttato dall'ultimo piano del letto al Castello a testa in giù, pensando che, visto che non aveva altro modo, corde eccetera, perché così voleva farla finita. Per fortuna non è morto, si è buttato proprio di testa all'altezza, lui stava all'ultimo piano, quindi all'altezza quasi del soffitto, quindi alto, quasi 3 metri, però per fortuna non è morto. Ha riportato gravissime lesioni midollari, qui nell'osso del collo si è rotto, è come si osa dirsi. Quindi, poi ecco un'altra cosa anche qui, perché poi ognuno tira l'acqua al suo mulino, chiaramente, no? Per ogni omicidio che c'è, omicidio, perché sono omicidi, le morti in carcere sono omicidi, il cui esecutore è il carcere, il mandante è il sistema politico, e in parte anche noi, che la società civile, che tanto civile non siamo, perlomeno non lo dimostriamo di essere civili, diciamo la società incivile che saremmo noi, perché allo stato dei fatti siamo incivili, se permettiamo queste cose. Sì, vabbè, noi non è che decidiamo, però un potere decisionale ce l'abbiamo, ridotto se volete, difficile, complicato, però ce l'abbiamo, no? Basta andare sotto i palazzi del potere e costringere con le buone, insomma, a cambiare queste leggi tremende, fasciste, tra l'altro sono leggi fasciste, quindi anche in contraddizione con così il dettato che dice questo è un sistema democratico. Vabbè, insomma, quando i giornali abbiamo detto parlano di carcere, delle morti in carcere, degli assassini in carcere, di tutta questa bruttura, e che a chi danno la voce? Al sindacato dei secondini della polizia penitenziaria, i quali chiaramente tirano acqua al proprio mulino, addirittura molte volte gli stessi rappresentanti, qui c'è uno del SAP, il presidente, il segretario, insomma un responsabile del SAP, e l'altro dell'USAP, cioè i vari sindacati di polizia penitenziaria, che dicono sì, è vero, ed è terribile, in carcere non si vive più, bla bla bla, tutte queste cose. E chiaramente loro chiedono poi aumento dei posti di organico delle guardie, miglioramenti economici, eccetera. E a conferma di questo, la necessità della loro presenza in carcere, altrimenti il carcere diventa un disastro, portano dei dati che non sappiamo se sono reali, perché nessuno l'ha verificati, che se fossero reali sarebbe allucinante. Loro rivendicano a sé, la polizia penitenziaria, i secondini, di aver salvato centinaia e centinaia di persone dal suicidio. Cioè, dice, noi col nostro attività di presenza, di controllo nelle celle, ovviamente non esiste, perché non è che di notte la guardia passa su e giù a vedere nella cella che succede, vabbè, comunque, però loro dicono questo, dicono che hanno salvato delle persone, detenuti, che stavano suicidandosi all'ultimo momento, e quindi la loro presenza, aumentando la loro presenza, si aumenterebbe anche la deterrenza rispetto al suicidio, diminuirebbero i suicidi, o anche per esempio la presenza di molte guardie, dice, permetterebbe che uno si sente male all'improvviso di poter essere soccorso in maniera più veloce, essere portato in ospedale in maniera anche ancora più veloce. Tutte queste rivendicazioni loro. Ma la cosa più grave è che loro, appunto, a conferma di questo, danno dei dati pazzeschi, veramente, che se fossero veri sono veramente da chiudere immediatamente le carceri, perché sono e arrestare il ministro della giustizia, questo adesso, e tutti quelli passati negli ultimi 40 anni. Perché? Perché dicono che loro hanno salvato nell'anno passato, per esempio, oltre 200 persone dal suicidio, quindi ci sarebbero stati altri 200 suicidi oltre quelli che ci sono stati, che è una cifra allucinante. E poi dicono che hanno verificato che ci stanno decine di migliaia, parlano di oltre 20.000, quindi 23-25.000 persone che sono state, che il carcere l'ha prodotte come persone disturbate di mente. E qui poi si apre il problema. Cioè, quindi dice, noi abbiamo a che fare col 30% che sono tossicodipendenti, quindi persone che non dovrebbero stare in carcere. E qui, anche se lo dicono i secondini, dicono una cosa giusta e sacrosanta, quindi quando una cosa è giusta, chiunque la dice è giusta. Questo è giusto, ed è vero che solo un regime pazzesco, criminale, tiene in galera il 30%, quindi più di 20.000 persone tossicodipendenti in carcere. Tutti altri posti potrebbero stare, ma non certamente in carcere. Quindi dicono una cosa seria su questo punto. Poi dicono che, appunto, bisogna aumentare il loro numero, e dicono che appunto il 30% in carcere e oltre quasi 25.000, quindi un terzo su 68.000, 25.000 è un terzo, circa, sono persone disturbate mentalmente. Quindi pensate il carcere che cosa produce? Produce persone entrate sane, perché se non entri in carcere, se non sei sano di mente, se no ti portano direttamente all'OPG, al manicomio criminale. Eppure, quindi il carcere produce non solo una devastazione fisica, ma anche mentale. Boh, non so se questo numero è esatto, però se fosse vero sarebbe allucinante. E qui arriviamo poi al discorso, appunto, degli OPG, che è un discorso di se il carcere è la vergogna di questo paese, l'OPG è la vergogna delle vergogne. Well, I must be the one that makes you wanna play and play. Yes, baby. Trust. Allora, all'interno di questo decreto, di cui abbiamo detto i due punti centrali sono 18 mesi detenzione domiciliare e l'arresto in flagranza di reato da trascorrere per i primi 2-3 giorni nelle celle di sicurezza dei commissariati, delle questure e delle caserme dei carabinieri, il terzo pilastro era la chiusura degli OPG. Dopo lo scandalo avvenuto fuori grazie al reportage fatto da questa commissione del Senato guidata da Ignazio Marino e anche con altri senatori che si erano portati appresso un operatore che ha fatto un egregio lavoro, ha fatto vedere le porcherie, le brutture, un vero e proprio lager di tortura. I lager che nel 2011, ma sono ancora in funzione nel 2012, non hanno nulla a che invidiare ad Auschwitz, tanto visto che poi ci, no, perché perlomeno questa è la voce che hanno detto tutti i commentatori, e va bene, e quindi hanno deciso che il primo febbraio del 2013, quindi fra un anno, ancora un anno di questa vergogna, quindi potevano, che saranno chiusi gli OPG, però attenzione, chiusi come? E qui c'è da cominciare a ragionare. Intanto hanno detto che le persone rinchiuse negli OPG, in questi 6 OPG, 6 manicomi criminali, dovranno essere trasferiti in strutture psichiatriche residenziali. Termine abbastanza generico che bisognerebbe capire che vuol dire. Praticamente dovrebbero ogni regione, perché la sanità intanto dovrebbero queste persone dichiarate malate di mente dovrebbero essere trasferiti dal controllo del Ministero della Giustizia, perché gli OPG sono delle strutture del Ministero della Giustizia, alla sanità. Siccome la sanità è a base regionale, quindi dovrebbero rientrare all'interno delle competenze della regione, quindi ogni regione dovrà attrezzare praticamente delle strutture psichiatriche residenziali. Ora, come verranno fatte queste strutture pesanti non lo sappiamo, e non dice niente, nemmeno non dice nulla, dice soltanto che dovranno essere inseriti nel territorio, quindi avere una, non più essere reclusive, cioè non tenere chiusi come in un carcere queste persone, ma dovranno avere un rapporto col territorio. Tutte belle parole, però il problema, noi abbiamo delle grosse preoccupazioni, ma non solo noi, la gran parte degli esperti, per esempio Peppe Dell'Acqua, direttore del DSM di Trieste, no? Diciamo un seguace di Basaglia, ed altri attenti osservatori di queste cose, hanno molta preoccupazione da questo, perché qui si dice, certo, bisogna chiudere quei 6 inferni, quei 6 lager chiamati ospedali psichiatrici giudiziari, e che rinchiudono 1500 persone. Liberare quelle 1500 persone, però non bisogna fare in modo che poi invece di 6 diventino 20, quindi non facciamo in modo che si moltiplichino nel territorio, perché il problema, dobbiamo mettere in discussione il principio. Il principio di che cosa? Il principio della concezione stessa della categoria malattia mentale. La parola malattia mentale è una parola sbagliata, perché diciamo assimila a disturbi comportamentali, disturbi relazionali, tutti i problemi che una persona può avere diciamo nel suo comportamento quotidiano, li fanno diventare malattia, quindi l'attribuiscono alla scienza medica, cioè la scienza medica si appropria, si impossessa di queste persone che hanno dei comportamenti diversi, le cui cause sono mille, tantissime, non le conosciamo nemmeno tutti e non le conosceremo nemmeno mai, ma che sicuramente dipendono dall'ambiente, dalle relazioni interpersonali, da dinamiche affettive, da mille altri problemi. Ciascuno ha la sua storia, ciascun essere umano ha la sua storia che probabilmente incide sul suo comportamento psico, sui suoi comportamenti. E quindi è lì che bisogna cercare casomai come affrontare i problemi dei disturbi, dei comportamenti socialmente non accettabili, anche se pure questa parola dovrebbe essere messa in discussione. Ma la cosa più grave e non accettabile è che la scienza medica, quella che deve curare il fegato perché sa individuare che il fegato è un organo ben preciso, che ha un suo funzionamento e che se non funziona bene può individuare di fare dare una cura, una dieta, una pillola, quello che cavolo è intervenire, quindi anche farmacologicamente, se sa come curare una frattura, cioè sa come curare le parti del corpo esistente. Ma i comportamenti, perché se ne deve appropriare la scienza medica, che infatti poi agisce col suo sistema, farmacologico, invasivo tremendamente, non solo, ma addirittura quando tu vai dal medico, no, per qualunque disturbo appunto corporale, lui ti dice, lei non ti dice niente spesso, ti dice prenda ste pillole, tu vai lì, guardi, dottore mi fa male qui, bene, prenda, se manco ti dice che cosa hai, che cosa proviene, spesso non ti... se trovi la persona intelligente, rara, tra i medici, al limite ti dice qualcosa delle cause, la provenienza del tuo disturbo, ti può mettere anche al corrente. Comunque tu non interagisci col medico, il medico, la medicina è una struttura che ti che sussume completamente il paziente nel momento che appunto tu vai come paziente dal medico, sussume, dice io decido, tu prendi queste pillole, mangia questa roba, non mangiare questa, fai una vita così, così, e tra l'altro anche lì non tiene conto del fatto ambientale, relazionale, per esempio non tiene conto dell'attività lavorativa, dove vivi eccetera, però ti dice devi fare una certa vita, devi prendere le pillole e ti passa il bruciore allo stomaco oppure il fegato o il rene o qualunque altra cosa. Anche lì secondo la gran parte delle persone sbaglia, comunque, perché se non tiene conto del contesto anche sul piano del corpo non ci azzecca. Ma a maggior ragione che senso ha che la medicina, che è questo tipo di scienza invasiva e completamente estranea al paziente, quindi non relazionale, non è che stabilisce una relazione tra medico e paziente, che senso ha che si appropri di quelle persone che hanno dei disturbi psichici, chiamiamoli così, comunque che hanno, diciamo la cosa più fea, che hanno dei comportamenti che la società, per come è formata adesso, dice di non accettare, perché il problema è molto più ampio, tant'è vero che la storia ci insegna che molti comportamenti ritenuti accettabili in certe società e in certi periodi storici, in certi altri non lo sono più accettabili e quindi vengono sanzionati o addirittura puniti o comunque esclusi e marginati. Cioè la cosa più allucinante, quindi, finché non rompiamo questo legame tra queste due parole, malattia mentale, che è un ossimoro, una contraddizione in termini, seppure c'è i problemi comportamentali, non attengono sicuramente alla medicina. La medicina va tolta, va levata. Se ci sono problemi di carattere relazionale, affettivo, sociale, su quel terreno devono trovare casomai la soluzione. È come se a un disoccupato gli si dà una pillola, e perché poi arriveremo a questo? I precari, certo, no? C'è oggi il disagio della precarietà, diamogli una pillola. La stessa cosa sarebbe, no? Se alla disoccupazione, alla precarietà, che so, al disagio giovanile, diamo le pillole, la stessa, usiamo la terapia farmaceutica, oppure ancora peggio quella invasiva tipo elettroshock, è la stessa cosa. Quindi questa è, bisogna prima scalzare completamente il concetto che crea un dominio assoluto, totale, veramente, per quello poi si chiamano, sono diventati lager i manicomi, lo erano prima che venissero chiusi, i manicomi criminali lo sono, quindi gli OPG lo sono ancora attualmente, proprio perché il concetto di malattia mentale crea un despota totale, assoluto, un Hitler, quindi un dittatore totale sulla vita e sulla esistenza delle altre persone. Questo è il problema che va distrutto prima di creare altre strutture per assistere. Sicuramente ci può essere un problema di assistenza, ma sicuramente va tolto dalla scienza medica per come è stata concepita, perché è invasiva, è totalizzante, è estraniante, è emarginante, e quindi è chiaramente non è in grado di affrontare questi problemi. Problemi relazionali si affrontano sul terreno relazionale. Se uno c'ha un grosso disagio, è come dire appunto in carcere, ora sarà vero, sarà falso, però i sindacati di polizia penitenziaria dice ci sono 25.000 persone disturbate mentalmente, e grazie appunto a quello che volete voi, perché pensate che invece il carcere rende le persone piacevoli, sane, solari, meravigliose. È chiaro che crea un grosso disagio, è fatta apposta per creare disagio. Quindi dice poi le persone chiuse dentro manifestano un disagio, è ovvio, gliel'hai creato tu il disagio. Quindi come si può curare il disagio disagio mentale, diciamo, no? I problemi psichiatrici delle persone recluse, e intanto liberandole, no, è ovvio che è così, ma ci vuole tanto. Ma qui il problema non è quindi che non ci arrivano a capire, è che questo, il potere della medicina è un potere arcaico, veramente spaventoso. Ora, che non vuol dire tutti i medici siano dei dittatori, ma la scienza medica lo è, e quindi quando usa il potere invasivo, estraniante, emarginante, è chiaro che provoca queste cose. Quindi il problema della la chiusura degli OPG, e lo dice anche l'associazione Stop OPG, che appunto ha fatto questa grossa battaglia, da anni si batte perché vengano chiusi questi lager mostruosi, dice che non va bene riprodurli sul territorio con lo stesso, se non mettiamo in discussione il concetto generale. D'altronde la chiusura dei manicomi in Italia, la battaglia fatta negli anni 70 da Basaglia, tutti gli altri eccetera, è stata possibile portarla avanti perché si è messo in discussione questo caposaldo feroce, veramente nazista, perché pensare che un comportamento di una persona debba essere sanato, pensate, sanato da qualcuno che sta sopra il trono e che decide che cosa deve fare di te stesso, della tua vita, e questa è una cosa allucinante e soprattutto inaccettabile, non solo per gli spiriti libertari, progressisti, ma secondo me per tutte le persone di buon senso. È un meccanismo proprio quello di concepire la malattia mentale come un disagio da curare, quindi la medicina si impossessa del tuo corpo e della tua mente e ti impone le scelte. Tra l'altro, voglio dire, per ultima cosa, basta ricordarsi che tutti i regimi autoritari, quelli fascisti, quelli nazisti, tutti i regimi autoritari, comunque poi si chiamassero, hanno utilizzato il controllo psichiatrico, soprattutto nei confronti degli avversari politici, facendoli passare per matti. La gran parte degli avversari politici dei regimi dittatoriali, e purtroppo a volte anche in quelli cosiddetti democratici, venivano bollati, buttati via, col fatto che questi sono matti, c'è un disagio psichico, quindi deve essere buttato fuori. Poi come finiva questo, vabbè, dipende. Ecco, questa è la preoccupazione sulla quale la battaglia no OPG è soltanto non si è ottenuto niente. Va fatta ancora una battaglia, perché questo che definisce questa legge, il progetto terapeutico riabilitativo personalizzato, che dovrebbe seguire ogni individuo, già l'idea è chiaro, la dà, che ogni persona deve avere il suo, però deve essere anche questo messo non in condizione di essere completamente subalterno, non di controllo dittatoriale di una potenza scientifica nei controlli di un corpo, di una mente, di una personalità, di un comportamento, ma deve essere un meccanismo relazionale, interattivo, sicuramente partecipato da più soggetti, no? E quindi da rivedere un po' tutto il meccanismo complessivo. Bene, con questo noi siamo arrivati alle 16, quindi è un problema grosso però che bisogna porsi, perché se non mettiamo in discussione appunto il concetto di malattia mentale e gli OPG li vedremo moltiplicarsi purtroppo sul territorio invece di in qualche modo, diciamo, liberarcene. Niente, noi adesso ne continueremo a parlare, ovviamente utilizzando anche dei contributi, che sono, ce ne stanno tanti anche oggi, però se ci mettiamo, siccome sono contributi lunghi, se ci mettiamo a leggere, insomma, occupiamo gran parte, però lo faremo anche questo, poi tanti li metteremo sul sito dove troverete la trasmissione. Bene, termina qui la conta di quest'oggi, sono le 16 in punto di questo mercoledì 22 di febbraio. Ricordiamo l'appuntamento per oggi, per questo pomeriggio, alla lapide del compagno Valerio Verbano, via di Monte Bianco, per ricordare appunto Valerio Verbano ucciso dai fascisti nel 1980, quindi 32 anni fa. L'appuntamento mi pare che alle 17 il primo appuntamento alle 17, poi ci sono altri appuntamenti in via di Monte Bianco. Ok, poi in serata ci sarà una cena per finanziare appunto tutte le iniziative diciamo a ricordo di Valerio Verbano. Dove ci sarà la cena? Aigene all'università, questa sera ovviamente a ora di cena alle 20:30, 21, finita la manifestazione. Buona libertà a tutti e tutti, a mercoledì prossimo.